Focus Economia. .17:06 Focus Economia, un saluto e ben trovati da Vincenzo Miglietta. Ultima puntata della settimana ricca di argomenti. La prima notizia, non in ordine di importanza ma rilevante per tutto ciò che rappresenta per gli appassionati di calcio, è il passaggio ormai ufficiale del Milan in mani cinesi. La famiglia Berlusconi dopo 30 anni fa un passo indietro. Fininvest cede infatti il 99,93% per 740 milioni di euro. La società rossonera viene rilevata dalla Sino-Europe Investment Management Changxing, una società cosiddetta veicolo nella quale vi sono diversi investitori, tra questi anche il Fondo di Stato cinese per lo sviluppo e gli investimenti. Grande spazio quindi, come tradizione, all'andamento dei listini internazionali, tutti in terreno positivo, trainati dai dati americani sul lavoro. L'economia stelle e strisce ha creato nel mese di luglio 255.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre le attese. Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 4,9%. Dati questi che hanno rivitalizzato una giornata di borsa che era partita comunque con il piede giusto. In questo momento FTSE MIB 2,32%, i migliori e i peggiori, al momento proprio del FTSE MIB, Banca Popolare dell'Emilia Romagna tra i migliori più 13,49%, IUX più 12%, Mediobanca più 8,48%, Unicredit più 4,66%, Banco Popolare più 3,93%, male Monte dei Paschi di Siena meno 1,35%, Recordati meno 0,98%, gli altri listini europei rapidamente: il DAX Francoforte più 1,18%, FTSE 100 Londra più 0,64%, CAC Parigi più 1,43%, benissimo Wall Street con il Dow Jones in questo momento più 0,88%, Standard & Poor's 500 più 0,79%. Interessante anche oggi l'euro su dollaro, in questo caso il lieve calo rispetto agli scorsi giorni, 1,106. Uno sguardo anche alla sterlina dopo il taglio dei tassi di interessi di ieri della Banca d'Inghilterra, euro su sterlina 0,847. Ed ancora, tra i temi della nostra trasmissione, i dati diffusi oggi dall'Istat sulla produzione industriale che a giugno registra un nuovo peggioramento con un calo dello 0,4% su base congiunturale, dell'1% tendenziale, quindi anno su anno il dato peggiore da inizio 2015. Parleremo anche di questo, male in particolare i seguenti settori: attività estrattiva addirittura meno 19%, prodotti farmaceutici e prodotti petroliferi raffinati, segno positivo per la fabbricazione di computer, elettronica e ottica più 2% e metallurgia, numeri dunque che danno l'idea ancora di un'economia che stenta a crescere a ritmi soddisfacenti, dati che fanno il paio con la debolezza dei consumi, e sarà questo proprio il tema del nostro primo approfondimento. Infine, nella nostra ultima parte ci proietteremo verso la prossima legge di stabilità, provvedimento che viene presentato dal governo a fine settembre ma che Palazzo Chigi ha già iniziato ad elaborare. Parleremo in particolare di sanità e dei tentativi di spending review in un settore cruciale per la tenuta delle regioni. Questo dunque è il nostro sommario di oggi. Potete scriverci, lo ricordo, al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di Radio 24. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo con le materie prime. L'oro, la valutazione dell'oro, meno 1,5% a $1,338 l'oncia. Il petrolio giù dello 0,8% a $41,6 il barile. L'economia internazionale, abbiamo detto di come oggi siano arrivati con effetto molto positivo i dati sull'occupazione dagli Stati Uniti. Allora, Vediamoli insieme. L'economia americana ha creato nel mese di luglio 255.000 nuovi posti di lavoro, ben oltre le attese. Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 4,9%. Le previsioni per il mese di luglio erano di 180-190.000 nuovi posti di lavoro, in netto calo rispetto ai 287.000 del mese di giugno. I dati sono stati accolti quindi a Wall Street con grande sorpresa, visti come la spia di un'economia che, pur non correndo, mostra una crescita stabile. Buone notizie anche sul fronte dei salari, cresciuti a luglio di 8 centesimi l'ora e del 2,6% su base annua. E la Casa Bianca non poteva fare altrimenti, esulta per i buoni risultati sul fronte dell'occupazione. A luglio, l'abbiamo detto, ben oltre le attese, sottolinea come l'economia americana dai primi del 2010 ha creato ben 15 milioni di nuovi posti di lavoro. Restiamo negli Stati Uniti, parliamo di Amazon, che va avanti tutta sulle consegne dopo i droni. Il colosso di Seattle si dota anche di un aereo cargo Amazon One, mostrato all'annuale Seafair Air Show negli Stati Uniti. È il primo di una flotta di 40 velivoli che l'azienda metterà in campo per spingere sulle spedizioni di prodotti a milioni di clienti in tutto il mondo. Secondo le stime, nel 2015 il volume di spedizioni è stato di 1 miliardo, pari al volume di FedEx nel 2012. Amazon ha affittato in questi anni 40 Boeing da Atlas Air Transportation Service Group. 11 di questi velivoli stanno già effettuando spedizioni per i clienti Amazon Prime. Gli altri velivoli arriveranno nel giro di 2 anni. Secondo gli analisti, con questa mossa Amazon ha più possibilità di controllare l'efficienza delle sue spedizioni. Ieri l'intervento della Banca d'Inghilterra, oggi dati sulla Royal Bank of Scotland, che chiude il secondo trimestre in rosso, risentendo soprattutto di spese per contenziosi legali nell'ordine di 1,28 miliardi di sterline. La perdita netta è pari a 1,08 miliardi di sterline contro un utile di 280 milioni dello stesso periodo 2015. Il risultato è peggiore delle attese degli analisti, che in media si aspettavano un rosso di 247 milioni di sterline. La banca britannica, di cui, lo ricordiamo, lo Stato detiene il 73%, ha anche rivisto in peggio le proprie previsioni, spiegando che probabilmente non riuscirà a centrare gli obiettivi fissati per il 2019. Ed ancora, nelle nostre notizie headline, in breve passiamo all'Italia, spazio alle banche. UbiBank ha chiuso il primo semestre dell'anno con una maxi perdita di 787 milioni di euro, dopo aver spesato nel secondo trimestre il 95% dei costi previsti per l'attuazione del piano industriale, con un effetto negativo sui risultati di periodo di circa 835 milioni di euro. Al netto di questa componente straordinaria, si legge in una nota, il primo semestre si chiude con un utile di 48,1 milioni a fronte dei 124,4 dello stesso periodo del 2015. Monte dei Paschi, abbiamo dato una disponibilità e un impegno a partecipare alla ricapitalizzazione. È un'operazione molto importante per il sistema bancario italiano, è molto coraggiosa, è la prima volta che si affronta il tema dei non performing loans. Spiegata bene al mercato, è un'operazione che credo possa essere di successo, lo afferma l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel a una domanda su un contributo ad Atlante 2. In questo ambito siamo pronti a valutare una partecipazione, ha dichiarato sempre Nagel, senza quantificare l'importo nel fondo. Ancora banche. Mediobanca segna nell'esercizio 2015-2016 un utile di 604,5 milioni in aumento rispetto allo scorso anno, che era stato di 589,8 milioni, e distribuirà un dividendo di 0,7 euro più 8% da 0,25 euro del passato esercizio. I ricavi si stabilizzano sui massimi storici a 2046,6 milioni da 2045, in ripresa il contributo di assicurazioni generali. Oh. Banca Carige ha registrato una perdita di 206,1 milioni nel primo semestre del 2016 dopo aver contabilizzato rettifiche di valore nette su crediti per 344,5 milioni e svalutato integralmente l'avviamento della controllata Banca Cesare Ponti per 19,9. Le rettifiche di valore di Carige, spiega la banca nella nota di bilancio, sono su posizioni creditizie già in essere a fine 2015. Argomento molto interessante, se ne è dibattuto molto, sono allora in dirittura di arrivo le regole per accedere all'arbitrato per gli obbligazionisti azzerati delle quattro banche. Fonti di governo confermano, come anticipato proprio dal Sole 24 Ore, che il provvedimento attuativo delle norme contenute nella legge di stabilità è stato ultimato e inviato a Palazzo Chigi. All'arbitrato potranno accedere sia i risparmiatori delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, che non hanno i requisiti per richiedere il rimborso forfettario, sia chi pensa di poter ottenere un indennizzo superiore all'80%. La gestione degli arbitrati dovrebbe essere affidata, come annunciato, all'ANAC di Raffaele Cantone. L'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, si è avvalso stamane della facoltà di non rispondere davanti al giudice di Vicenza Roberto Venditti in relazione alle accuse di aggiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza per le quali è stato posto agli arresti domiciliari nei giorni scorsi. Consoli ha detto di sentirsi ancora molto scosso e di non ritenere al momento di poter rispondere alle contestazioni. All'interrogatorio ha preso parte anche il PM romano Pesci, che a fine udienza si è appartato con uno dei legali di Consoli, l'avvocato Moscatelli. Abbiamo detto dell'accordo per la cessione del Milan, accordo i cui nomi nello specifico non sono stati ancora resi noti. Stiamo parlando della controparte e ne parleremo comunque nell'ultima parte proprio di Focus Economia. Parliamo però del 99,93% del Milan, è stato ceduto a una cordata di imprenditori cinesi ed è importante che sia stata ufficializzata questa operazione proprio dalla Fininvest. Berlusconi ha approvato il preliminare di vendita firmato dall'amministratore delegato della Fininvest Danilo Pellegrino e dal rappresentante degli investitori Annali, relativo proprio alla compravendita del club valutato 740 milioni tenendo conto della situazione debitoria del Milan stimata in circa 220 milioni di euro. Stiamo avviando a chiudere le nostre notizie in breve, le chiudiamo con una notizia sul fisco. Nel primo semestre del 2016 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 203.477 milioni di euro, in aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottolineando che neutralizzati gli effetti della diversa modalità di versamento dell'imposta di bollo e del versamento del canone in bolletta, che inizierà solo da luglio, la crescita nei primi sei mesi risulta pari al più 6,1%. Con le notizie in breve, allora, ci fermiamo qui, passiamo al nostro primo argomento. Nostro primo argomento, che è abbastanza vasto perché prendiamo in considerazione lo stato di salute dell'economia italiana, quindi parleremo dei dati della produzione industriale diffusi oggi dall'Istat e poi dei consumi proprio degli italiani che stentano a ripartire. Di tutto ciò parliamo e andremo a parlare con Mario Seminerio, economista, curatore del blog fastidio.net e co-conduttore dei Conti della Belva proprio su Radio 24. Buon pomeriggio, Mario. Grazie, buon pomeriggio. Mario, allora oggi l'Istat dice che l'economia stenta a ripartire e anche i dati della produzione industriale indicherebbero un'economia abbastanza, non dico ferma, ma con percentuali veramente molto basse. Un tuo primo commento. Sì, io mi spingerei a dire che abbiamo una recessione industriale oramai abbastanza conclamata, nel senso che non è solo il dato di giugno, il dato mensile di giugno che è negativo, ma è anche quello del secondo trimestre e anche la variazione annua corretta per i giorni lavorati per quanto riguarda la produzione industriale. Quindi trovo veramente difficile che si possa evitare di dire che siamo purtroppo in una condizione di stagnazione industriale o più propriamente direi, come dicevo poco fa, recessiva. Quindi questo mi pare il dato oggettivo. Chiaramente la cosa che colpisce di più in senso negativo è che mentre altri paesi, ad esempio la Germania, ha fatto registrare ordinativi industriali sicuramente un dato negativo sia su base mensile che su base annua, ma il loro livello complessivo di produzione industriale regge ancora e anche tutti i sondaggi a livello di industria manifatturiera mostrano un passo che è ancora di espansione, pur se non eclatante. Invece il nostro paese resta, come sempre, il vaso di coccio tra i vasi di ferro, oppure il vaso di pasta frolla tra i vasi di coccio, per dirla meglio. Cioè quando c'è diciamo un momento espansivo noi superiamo di poco la stagnazione e riusciamo ad entusiasmarci anche per quello. Quando invece altrove c'è un rallentamento noi siamo i primi a rispondere in senso negativo. E se posso dire un rapido inciso, purtroppo si osserva dai dati di produzione industriale di giugno che sta venendo meno l'apporto espansivo di quello che era stato il traino, cioè il settore della fabbricazione dei mezzi di trasporto, che è in contrazione mensile, in contrazione trimestrale e in contrazione tendenziale, cioè sulla variazione annua. Io ricordo una cosa, noi soprattutto lo scorso anno abbiamo avuto dei buoni dati manifatturieri, grazie soprattutto al fatto che diciamo il retooling, la ripartenza industriale di Fiat in Italia è avvenuta sia con una produzione che va sull'interno ma soprattutto con una produzione destinata all'estero. Quindi per molti aspetti noi siamo a leva sulla congiuntura internazionale. Quando le cose vanno bene, quindi c'è domanda di veicoli, noi abbiamo un beneficio amplificato. Ma in caso di rallentamento, di stasi, di contrazione, eccetera, noi abbiamo allo stesso modo un rallentamento. Quindi, ancora certo, più marcato. Praticamente Mario, tu dici quando le cose vanno bene noi difficilmente riusciamo ad attaccarci a questo autobus che passa, forse sì. ne sfruttiamo un pochino la scia per dare quest'immagine, quando invece le cose vanno male siamo i primi a cadere. Allora, parlavi del vaso di coccio per quanto riguarda l'Italia in mezzo a vasi di ferro, però allora vado a leggere un po' di dati proprio oggi dell'Istat che tu conosci bene, ma li diciamo ai nostri ascoltatori. Allora, secondo l'Istat l'indicatore composito anticipatore dell'economia italiana evidenzia un ulteriore calo, seppure di intensità più contenuta rispetto alle flessioni degli ultimi mesi. Questo per quanto riguarda l'indicatore composito. Per quanto riguarda i dati della produzione industriale, che sono poi quelli sui quali ci concentriamo maggiormente, l'Istat registra una diminuzione dello 0,4% rispetto a maggio e dell'1% rispetto allo stesso mese del 2015. Quest'ultimo dato rappresenta la peggiore flessione dal gennaio del 2015. In particolare la produzione di auto, che in questi mesi aveva sostenuto l'andamento della produzione dell'industria italiana, e lo ricordavi tu Mario, accusa il primo calo dal maggio del 2014 con un meno 1% rispetto al giugno del 2015. E sempre su base annua scendono anche la farmaceutica, ben meno 7%, l'industria alimentare, le apparecchiature elettriche, bene invece l'elettronica, il tessile, l'abbigliamento e tiene, ma siamo qui al più 0,1% la meccanica. Tutti i settori, Mario Seminerio è con noi a commentare questi dati che poi sono quelli più importanti per il nostro prodotto interno lordo. Sì, assolutamente, sono la speranza, diciamo, della ripresa e la speranza appunto di una ripresa manifatturiera che invece al momento latita. Ricordiamo appunto, come dicevi tu, su dati Istat, che noi abbiamo avuto lo scorso anno, oltre ai mezzi di trasporto, anche il settore farmaceutico, che ha dato un apporto molto rilevante alla nostra espansione manifatturiera, che ahimè allo stato attuale sembra essersi così rivelata effimera. Chiaramente c'è una debolezza globale che si riscontra nei dati, diciamo, di commercio estero. Poi, se consideriamo che la domanda interna del nostro paese resta molto debole, non si è mai realmente ripresa dalla crisi, e che c'è un contesto di investimenti che sono assolutamente esangui ed anemici, il quadro d'insieme non è buono, e a questo si aggiungono, ma poi magari penso che ne parleremo, sì, certamente, il quadro dei consumi interni, che non è per nulla buono da qualche mese a questa parte. Infatti è così, Mario, andiamo tra breve a parlare dei consumi. Volevo sentire da te e concentrarci ancora sulla produzione, perché stiamo parlando di flessioni in settori, lo dicevamo, molto importanti, avanzati tecnologicamente, che anche a livello europeo vanno ad incidere anche sui prodotti magari che vengono prodotti nella stessa Germania. Ormai l'interdipendenza di produzione è molto sviluppata. Ricordiamo per esempio il caso Volkswagen, quando si parlò delle analisi truccate della Volkswagen, si disse: guarda, stiamo attenti, perché vi potrebbero essere delle conseguenze negative anche sulla nostra economia, perché molte aziende italiane lavorano per Volkswagen. Allora ti vengo a chiedere, perché in Germania, lo dicevi tu, lo anticipavi, la produzione industriale continua ad essere positiva e da noi no? Stiamo parlando sempre di prodotti di alta qualità. Sì, loro stanno avendo apparentemente un indebolimento della produzione per il mercato di esportazione. Questo è abbastanza oggettivo, ma la domanda interna resta robusta. Bisogna ricordare che da almeno due o tre trimestri il contributo alla crescita del PIL tedesco fornito dai consumi domestici tedeschi è robusto e importante, pur in presenza di conti pubblici che non sono, di una politica fiscale che non è espansiva, ma anzi punta decisamente al pareggio di bilancio. Per cui, ecco, quello che si è sempre rimproverato alla Germania, cioè di essere molto neghittosi nel trascinare, diciamo, nello stimolare i propri consumi domestici, si è sempre rimproverato qua da noi in Italia, da due o tre trimestri a questa parte non è più così vero. Poi è ovvio che l'economia tedesca è costruita e modellata sull'interscambio globale internazionale, certo, quindi da una flessione dello stesso interscambio subisce una sorta di rallentamento. Però gli indicatori, diciamo le survey, i sondaggi di manifattura sono ancora moderatamente espansivi. Ecco, questo c'è da sottolineare. Quindi, magari, Mario, adesso dico una banalità, però quando si dice allora che nell'Unione Europea tutto viene deciso da Bruxelles e che i margini di manovra dei vari governi sono limitati, questo è l'esempio invece dove a parità di economie molto simili, manifatturiere, si riesce da qualche parte a fare, non dico meglio, non sto dando un giudizio sul nostro governo, ma vi sono delle politiche che forse arrivano da lontano, che riescono ad incidere maggiormente in maniera positiva nei momenti di congiuntura internazionale difficile come quello attuale. Sì, guarda, io non vorrei, diciamo, attirarmi gli strali patriottici di chi dice che l'Italia è penalizzata, però è vero, cioè la Germania sta beneficiando chiaramente di una situazione dell'euro che penalizza altri paesi, e quindi però ce ne stanno mettendo di loro sul piano positivo. Stanno dimostrando che non è necessariamente vero che serva andare a deficit per stimolare la domanda interna, anzi, conoscendo il consumatore tedesco, nel loro caso è vero il contrario, perché quando i conti pubblici in Germania non sono in ordine, il consumatore tedesco si ritrae, forse perché, diciamo, per loro vale la cosiddetta equivalenza ricardiana, cioè quella cosa per cui si dice: c'è più deficit vuol dire più tasse future, quindi comincio a consumare meno nel presente, meno, certo, perché nel futuro dovrò pagare più tasse. Quindi sono proprio mondi Mi spiace dirlo sinceramente perché sono il resto italiano, ma sono mondi veramente differenti. Le fragilità strutturali e le vulnerabilità del nostro paese le conosciamo, ma purtroppo dovremmo anche prendere coscienza e conoscenza che noi restiamo, come si diceva prima, l'anello debole della catena, e ogni ripresa da noi si traduce in uno sbuffo che ci porta lievemente sopra il concetto di stagnazione, bene. Al netto della propaganda. Ci fermiamo un attimo, 349-238-6666, spazio in questo caso al meteo. Focus Economia. Nuovo insieme, Focus Economia, sono le 17.33, stiamo analizzando la situazione in base ai dati della produzione industriale dell'economia italiana, grazie anche al contributo del nostro ospite Mario Seminerio, economista, curatore del blog fastidio.net lo conoscerete, co-conduttore dei Conti della Belva proprio su Radio 24. Mario, abbiamo detto della produzione industriale che non va benissimo. Abbiamo letto e abbiamo approfondito questi numeri, di questi giorni sono anche i numeri relativi ai consumi che in Italia non ripartono. Ci sono delle motivazioni di fondo su questo? Ieri è uscito questo dato della società specializzata Markit, l'indice dei direttori acquisti delle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio, che sono estremamente negativi. Indicano una forte contrazione, in pratica nel rapporto, diciamo, degli economisti di Markit si indica che c'è stato un andamento delle vendite che è stato nettamente peggiore rispetto alle aspettative dei dettaglianti, e questo sorprende, questo determina al contempo un accumulo di merce che deve essere in un modo o nell'altro smaltita attraverso campagne promozionali molto aggressive, quindi sconti, che di fatto riescono bene o male a, diciamo, smaltire gli eccessi. C'è anche un contributo da parte dei grossisti, per cui la debolezza della domanda si trasmette in tutta la filiera distributiva, sia al dettaglio che all'ingrosso. Questo è un dato molto negativo, perché mentre la Francia e soprattutto la Germania, che comunque, come dicevo prima, hanno un contributo positivo da parte dei consumi, reggono, hanno valori superiori a 50, che vuol dire espansione, l'Italia addirittura ha un valore di 40 su questo indice, che indica una contrazione veramente molto marcata, e soprattutto questo sondaggio dei direttori acquisti delle imprese del commercio al dettaglio è letteralmente precipitato negli ultimi tre mesi per quanto riguarda il nostro paese, per cui aspettiamo in parallelo i dati effettivi, ma i dati del commercio al dettaglio non sono buoni. Per quanto riguarda l'Italia c'è una differenza tra il macro e il micro. In che senso? Noi abbiamo visto che finora i consumi delle famiglie hanno fornito negli ultimi trimestri un contributo positivo alla crescita del nostro PIL, e di questo ci siamo rallegrati, per certi aspetti anche meravigliati, però in realtà questo, che è valido a livello macro, cosa vuol dire a livello micro? Intanto il contributo dei consumi a livello di crescita del PIL è un valore reale, quindi tolta l'inflazione. Ma se ci sommiamo la variazione dei prezzi, cioè la deflazione, vediamo che le aziende fanno una fatica incredibile a vendere, cioè possono vendere solamente abbattendo i prezzi. E quindi, per far capire bene ai nostri ascoltatori, sì, che cosa si crea? Praticamente la grande distribuzione abbassa i prezzi per poter vendere, ma inevitabilmente la redditività va a limarsi, e quindi automaticamente poi per mantenere dei margini di guadagno si dovrà incidere su altri tipi di costi della stessa azienda. Non è comunque un circuito questo virtuoso a lungo andare? No, questo è un circuito assolutamente vizioso e corrosivo, perché, come segnalava questo sondaggio Markit, si sta verificando riduzione di occupazione nel commercio al dettaglio. Almeno le aziende sondate hanno dichiarato di avere ridotto gli organici. Vedremo nei prossimi mesi se ci sarà un riflesso nei dati Istat sull'occupazione complessiva relativamente al comparto del commercio, però è evidente che, poiché il costo del lavoro è un costo quasi interamente fisso, se l'azienda è costretta a ricorrere a promozioni, ad abbattimenti dei prezzi di vendita, cioè se i suoi fatturati crescono poco, non crescono per nulla, addirittura si contraggono, ma i suoi costi, in primo luogo il costo del lavoro, resta quello, è ovvio che si crea uno squilibrio reddituale che prima o poi fatalmente porta le aziende ad agire sulla leva degli organici, cioè a ridurre l'occupazione. Questo ecco, è l'aspetto più preoccupante della più dinamica attuale del commercio al dettaglio in Italia in questo periodo. Perché tra l'altro, oltre all'importanza dell'occupazione, questa è la, immagino sia la preoccupazione di tutti, poiché è una spirale, meno occupati hanno, quindi ci saranno meno persone con del reddito da poter spendere e quindi va ad incidere ulteriormente sui consumi stessi. Però mi fanno notare alcuni ascoltatori che recentemente i beni durevoli hanno avuto un trend, non dico di forte crescita, ma comunque un segno più, ovvero probabilmente non si consuma non si consumano certi tipi di prodotti, ma invece si risparmia magari Mario per potersi comprare l'elettrodomestico oppure l'automobile. Sì, negli scorsi mesi e trimestri inequivocabilmente i beni durevoli hanno avuto un andamento soddisfacente che è parte, la parte più rilevante che ha sostenuto i consumi complessivamente. Io farei però notare un piccolo rovescio della medaglia: le statistiche sul credito al consumo, che di solito è quello, in un caso, in un numero di casi abbastanza significativi, si ricorre ai finanziamenti per acquistare auto ed elettrodomestici, c'è stato un corrispondente aumento del credito al consumo. Per cui è vero che abbiamo avuto negli scorsi mesi e trimestri una lieve ripresa dei beni durevoli di consumo, certo, sì. Però abbiamo avuto anche una corrispondente ripresa del credito al consumo, quindi sono stati acquistati a credito. Grazie. E consideriamo comunque che questi sono beni che dopo un certo arco temporale vanno comunque cambiati per logoramento fisico, per cui discorso è questo qui. Grazie ancora a Mario Seminerio, noi ci fermiamo e cambiamo argomento, veniamo alla giornata di borsa. Giornata di borsa che commentiamo e la ringrazio insieme ad Eleonora Micheli, collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Eleonora. Buon pomeriggio. Eleonora, allora guardo il FTSE MIB e vedo dopo giorni un po' di difficoltà un bel più 2,40%. Esatto, Milano quest'oggi è stata la migliore, sono andate bene tutte le borse europee, ma senza dubbio Milano ha avuto la marcia in più grazie soprattutto alla performance di alcune blue chips, come in primo luogo le Beeper, che sono volate sul finale del 13% all'indomani della conference call e della diffusione dei conti del semestre. Non sono stati tanto i conti del semestre comunque a piacere così tanto al mercato quanto i fondamentali dell'istituto, in particolare gli analisti guardano ad esempio il CET1, che è un indice che indica sinonimo della solidità dei fondamentali dell'istituto, che è stato molto alto e superiore alle attese. Certo, e poi Piazza Affari più in generale ha vissuto sulla spinta dei dati che sono arrivati dagli Stati Uniti? Esatto, quest'oggi infatti le borse europee erano già ben impostate questa mattina, ma hanno senza dubbio accelerato nel pomeriggio, confortate anche da Wall Street, dove peraltro sia il Nasdaq sia l'S&P 500 hanno aggiornato nuovi massimi storici. Questo perché è stato annunciato che negli States nel mese di luglio sono stati creati 255.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto comunque stabile al 4,9%, ma soprattutto i posti di lavoro creati dimostrano che l'economia americana procede a passo di carica e quindi fa ben sperare anche per l'economia mondiale. Ecco Eleonora, guardando un po' i vari titoli vedo bene molti titoli bancari, tra questi Medio Banca, e male invece ancora per un altro giorno Monte dei Paschi. Sì, Guarda, oggi le banche sono andate quasi tutte bene. La migliore, come ho detto, è stata BPER sull'onda della semestrale. Bene anche Mediobanca, più 8,75%. Anche in questo caso è stato l'effetto dei conti. I conti chiusi a giugno, ma relativi all'esercizio 2015-2016, chiuso con un utile di 605 milioni, superiore alle attese degli analisti. Invece sono andate male UBI, meno 0,92%, e Banca MFS, meno 1,58%. UBI ha invertito rotta nel pomeriggio dopo la diffusione dei conti del semestre, che ahimè si sono chiusi con una perdita superiore alle attese degli analisti, esattamente di 787 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la Banca Senese, in questo caso si sa continua a pesare il rischio relativo all'esecuzione dell'aumento di capitale. La banca dovrà lanciare nei prossimi mesi un aumento di capitale da ben 5 miliardi, ma ricordiamo che in borsa ormai vale solamente 750 milioni di euro, e quindi ci si interroga su chi sottoscriverà l'operazione e appunto se riuscirà veramente ad andare a buon fine. Certo, quindi forti perplessità ancora, o diciamo così, molta cautela su Monte dei Paschi di Siena, quindi ha avuto una settimana abbastanza travagliata. Invece spiegaci perché sono un po' di giorni che va molto bene IUX. Sì, IUX in questo caso è anche in questo caso l'effetto conti. Ieri a borsa chiusa la società ha comunicato la semestrale, che ancora una volta è stata in rialzo. Non solo, ma proprio nel secondo trimestre la società ha anche accelerato rispetto ai primi tre mesi dell'anno per quanto riguarda i ricavi. L'utile è stato di 37 milioni, in progresso del 15,2%, e in più i vertici dell'azienda hanno confermato i target per fine anno, a dispetto dell'esposizione oltre maniche, e quindi a dispetto anche della svalutazione che ha recentemente subito la sterlina. I titoli sono stati premiati con questo progresso di superiore al 12%. Invece ci avviamo alla chiusura di questo spazio dedicato alla giornata in borsa, vedo una parità per quanto riguarda Campari, che negli scorsi giorni aveva invece guadagnato un pochino, se non sbaglio. Sì, in questo caso ovviamente non era il titolo sotto i riflettori quest'oggi. Oggi gli investitori si sono concentrati maggiormente sulle banche o su società che comunque hanno pubblicato i conti del trimestre. Semmai vale la pena evidenziare che ad esempio hanno corso le Fiat, le FCA, più 4,1%, e della Galassia Agnelli sono andate bene anche le Ferrari, più 1,97%, e l'Exor, più 3,24%. Grazie ad Eleonora Micheli, collega di Radio Cor Il Sole 24 Ore, per l'aiuto a capire bene la giornata in borsa. Noi ci fermiamo per le strade. Focus Economia. Nuovo insieme, 17.46, Focus Economia, ci avviamo verso il giornale radio delle 18. Parliamo della prossima legge di stabilità, direte forse un po' prematuro, no? Perché è proprio questo il periodo nel quale il governo, soprattutto i ministeri, iniziano a fare i programmi, a buttare le linee guida della prossima legge di stabilità, e soprattutto a guardare dove è possibile risparmiare. Oggi parliamo allora del comparto della sanità, che sappiamo essere molto importante nei conti dello Stato, soprattutto nel difficile rapporto tra Stato e Regioni. Ci aiuta a capire di più questo argomento, difficile argomento, il collega del Sole 24 Ore, Roberto Turno. Grazie Roberto, che è qui in studio a Roma insieme a me. Ciao Vincenzo, grazie a te, grazie ai tuoi ascoltatori. Eccoci Roberto, allora l'obiettivo principale, in base anche all'articolo che oggi è scritto sul Sole 24 Ore, l'obiettivo del governo è quello di fare spending review, ovvero di cercare di risparmiare su un settore molto, molto ampio, risparmiare senza, si spera, incidere sui servizi offerti ai cittadini, puntando soprattutto su che cosa? Mi sembra di capire sui centri di costo, ovvero fare fare in modo che non sia più la singola ASL, addirittura che non sia più la singola provincia, ma la regione o addirittura più regioni insieme a fare acquisti insieme. Tutto questo dovrebbe portare a risparmi. Hai detto tutto benissimo, soprattutto nell'usare il condizionale, perché in tanti anni di fallimenti, di risparmi messi in cantiere, insomma non è che abbiamo più tanto tempo da perdere, tanto tempo da sprecare, tanti soldi da sprecare. E hai spiegato bene il fatto che per acquistare bene, ma acquistare bene dovrebbe significare non tagliare le cure, non i servizi, si acquista bene unendo le forze, perché l'acquisto singolo della ASL, delle mini centrali d'acquisto, delle mini strutture, porta fatalmente, oltre che ad imbrogli, a sprechi, a truffe. Non lo volevo dire, ma dobbiamo dirlo, perché sono soldi di tutti, poi porta ad acquistare male, cioè a pagare di più. E questo, al di là di qualsiasi giudizio che si voglia dire, è una legge dell'economia. Ed è una legge che uno Stato che non ha più da sprecare non può più trascurare. Ora, con la finanziaria scorsa è stato messo in cantiere appunto il passaggio da decine di migliaia di centri d'acquisto a 33 massimo, cioè centrali uniche d'acquisto. Pensa soltanto che per esempio tre regioni, Toscana, Umbria, Marche, si stanno attrezzando per fare una sola macro regione d'acquisto. Perché? Perché sanno bene, proprio loro che poi non sprecavano tanto, quelli che acquistavano bene, sanno bene come vanno le cose. Poi la sfida sarà quella, come dire, di non tagliarci le cose e di non darci il peggio, anche perché poi dietro c'è un'economia, c'è un'impresa, c'è un'occupazione, tutto quanto, però per premiare chi veramente merita. Ecco, oggi c'erano dei numeri veramente interessanti nel tuo articolo sul Sole 24 Ore, alcuni prodotti utilizzati negli ospedali che vengono paragonati nel loro acquisto. Io immagino, Roberto, siano a parità di qualità dello stesso singolo articolo. Stiamo parlando, per esempio, gli stent coronarici. In Puglia vengono acquistati nell'83%, quindi dell'acquisto, hanno un prezzo questi stent da 840 a 1000 euro. Un 15% sempre di questi stent viene acquistato addirittura tra 100 e 650 euro, quindi già vediamo una differenza nella stessa regione. E valori questi che invece cambiano poi da altre regioni. C'è una grande differenza tra nord e sud in questi casi? C'è sicuramente una differenza, cioè le regioni del sud, quelle in particolare che hanno quasi tutte purtroppo, che sono sotto piano di rientro, come si dice, sotto schiaffo del governo, perché commissariate proprio per la spesa sanitaria storica che ha debordato dai limiti, sono quelle che acquistano peggio e a prezzi più alti, forse anche perché acquistano, come dire, meno unità di prodotti, però e questa quindi, non è una giustificazione, certo, quindi fanno pagare di più. Poi dietro ci possono essere ben altre ragioni. C'è anche da dire che dentro una stessa regione capitano le escursioni di pagamenti, quelle che al giornale l'abbiamo chiamato le montagne russe. Le montagne russe. Perché vediamo che da ASL della stessa regione. Oggi leggevo, prendiamo in considerazione Torino, così nessuno ci può criticare e dire che parliamo solo del sud. I farmaci inibitori della pompa acida, non so cosa siano. Sono particolari farmaci per una. L'ASL Torino 1 li paga 2,1. Da 1 a 3 euro e il Torino 2, quindi l'ASL 2 li paga 2,5 euro, quindi, ma addirittura sia dentro una regione, quindi Cuneo che paga in un modo piuttosto che Vercelli che più risparmiosa, ma addirittura fra Torino 1 e Torino 2 c'hai dati che proprio non tornano. Questo vale poi, come dire, vale anche per altri prodotti, per i pacemaker. Certo, pacemaker, adesso qui non si capisce perché in Calabria un pacemaker debba costare oltre 3.500 euro e in Liguria, torno a dire, spero sia a parità di qualità, circa 1.000 euro, quindi vi è una sono prodotti equiparabili. Questi dati sono stati forniti in maniera un po' segreta, poi noi li abbiamo visti, certo, quindi certo, non ci siamo fatti scappare, sono stati forniti da Göran Guttgeld alle regioni in un recente incontro, quindi commissario per la spending review, certamente, giusto, è assolutamente, cioè è il suo lavoro quello, insomma, quindi certo, si tratta di prodotti assolutamente uguali. Non è spiegato, va detto, per quante unità di prodotto, però a mio modo di vedere non cambia niente per quello che deve essere il cammino da compiere. E quindi al di là dello stock comprato non vi possono, esatto, essere tutte queste differenze. Roberto, grazie, ringraziamo Roberto Turno, collega del Sole 24 Ore, per questo approfondimento sulla prossima finanziaria, in specifico sulla sanità. E noi andiamo a cambiare argomento. Andiamo a cambiare argomento velocemente verso la chiusura di questa puntata di Focus Economia e parliamo del diavolo che passa al dragone. Abbiamo titolato così questa nostra ultima parte di Focus Economia e coinvolgo subito il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio, ecco, Marco, e grazie per la tua disponibilità. In sostanza, l'abbiamo detto più volte, alla fine tra stop and go il Milan ha cambiato proprietà, Berlusconi dice addio dopo 30 anni, al di là dei ricordi e degli aspetti sportivi, spiegaci un po' questa operazione. Beh, è un'operazione che va inquadrata in quella colonizzazione che di fatto il governo cinese sta operando nel calcio europeo, con un obiettivo che il presidente Xi ha indicato da qui al 2050, cioè quello di ospitare e vincere un mondiale. Il governo cinese, il governo di Pechino, dopo aver fatto sì che la Cina sia diventata appunto una potenza olimpica, e oggi iniziano le Olimpiadi a Rio, vuole anche che diventi una potenza calcistica, ma questo chiaramente ha una valenza sportiva ma anche industriale, perché a tal fine tutte le grandi aziende cinesi, pubbliche o private, ma sappiamo che nell'economia cinese la differenza è molto sottile, quasi, certo, non c'è, sono state schierate per realizzare questo obiettivo. Nell'ultimo anno e mezzo i club di mezza Europa sono stati acquistati da società cinesi, chiaramente la campagna di colonizzazione ha avuto il suo fuore all'occhiello nella conquista di Milano. In un poco più di un mese è stata acquistata da parte di Suning l'Inter, e ora si appresta a passare di mano il Milan, il tutto tra Inter e Milan per 1,3 miliardi che Moratti, Berlusconi e Toir hanno incassato, e questo determina speriamo anche un cambiamento per quanto riguarda la Serie A, che è il campionato quello del mondo, è diventato un campionato marginale in Europa proprio per la carenza di fondi. Vedremo se i cinesi vorranno arricchire e potenziare la Serie A, se questo progetto, diciamo, di vincere un mondiale permetterà anche il calcio italiano di trarne giovamento o meno. Ecco Marco, ma la cifra di 740 milioni, e poi bisogna anche specificare che non saranno versati tutti adesso, ma in un triennio, se non sbaglio, è il prezzo giusto per il Milan? Sì, il Milan sarà pagato di fatto tra equity e indebitamento appunto 740 milioni, l'Inter è stato valutato e pagato intorno ai 600 milioni. Altre due società cinesi per esempio hanno comprato poco tempo fa il 13% del Manchester City e delle aziende e di altre società calcistiche satelliti del Manchester City per 400 milioni, valorizzando il club 2,8 miliardi. Però in quel caso parliamo appunto di una delle potenze ormai calcistiche a livello mondiale, il Milan e l'Inter erano un po' in fase di declino, e questo più o meno è il prezzo per società che producono e hanno prodotto per esempio soltanto negli ultimi bilanci, tra una e l'altra quasi 200 milioni di perdite, quindi sono società che vanno rilanciate con nuovi investimenti, con progetti industriali che le vecchie proprietà, scusami, non hanno avuto la forza o la voglia, certo, o la voglia di fare. Certo. Marco, siamo in chiusura, 30 secondi per capire da te chi c'è però dietro a questi cinesi, perché mi sembra un po' una partecipazione a più mani. E infatti nel caso dell'Inter c'è stato un unico progetto, Suning Holding, che ha un fatturato di quasi 40 miliardi di dollari all'anno, quindi per capire una potenza. Allo stesso tempo, dall'altra parte, Sponda Rosso Nera, c'è una grande confusione in questo momento, ma sappiamo che uno degli elementi è un fondo che fa capo direttamente al governo di Pechino, e questo dovrebbe tranquillizzare i tifosi. I tifosi rossoneri. Aspetteremo la disclosure che avverrà da qui alla fine dell'anno, quando ci sarà il closing. Grazie a Marco Bellinazzo, collega alle Sole 24 Ore. Un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Andrea Roccabella in regia. Un saluto e buon fine settimana da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.